Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì qui dai studi di Radio Onde Furlane in diretta dalle ore 20 alle 21.30, ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla di inizio trasmissione, ovvero sia Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì dagli studi di Radio Onde Furlane qui a Udine dalle ore 20 alle 21.30. Vi ricordo che siamo in diretta radiofonica e ora andiamo all'ascolto di questa band statunitense, anche se un po', diciamo, un genere particolare che non spesso abbiamo messo. Comunque, magari agli inizi, agli esordi di questa band, insomma, il genere era veramente dalle sonorità punk, e da questa, e noi quindi ci ascoltiamo questi, gli Misfits, da questo album che raccoglie tutti i 7 pollici dal primo, ovvero dal 77 all'84, ma quelli che ascoltiamo uno o due brani sono estrapolati da Bullet, che è un EP del 78, e andiamo all'ascolto. Sì, un saluto anche da parte mia. Allora iniziamo così, parlando di questo fatto grave, l'ennesimo fatto grave che è successo al CPR di Gradisca di Sonzo, cioè la morte per impiccagione e chiaramente l'omissione di soccorso da parte del personale sanitario e della polizia, insomma, interna al CPR stesso, di un ragazzo pakistano di 28 anni. E su questa cosa è successa il 31 agosto. Questo ragazzo, di cui non si sa nemmeno il nome, perché appunto in queste istituzioni produttrici di morte, nemmeno se le persone non vengono nemmeno trattate come tali, non c'è nemmeno così la preoccupazione, insomma, di salvaguardare l'identità almeno della persona a cui sono successe queste cose. E appunto questo ragazzo era entrato solamente un'ora prima nel CPR, e da dentro i prigionieri appunto fanno sapere che il ragazzo ha fatto la corda, quindi appunto si è preparato per uccidersi subito dopo l'incontro con il giudice di pace di Gorizia, che aveva confermato la sua permanenza nel CPR per 3 mesi. E appunto i prigionieri ci tengono a dire che molto probabilmente si è ucciso proprio preso dalla disperazione per questo fatto, insomma, che ricadeva sulla sua vita. E ci dicono anche che molto spesso questi, diciamo, anche i gesti di autolesionismo avvengono proprio subito dopo gli incontri con il giudice di pace, che confermano appunto la detenzione. Questo ragazzo era nella zona blu, zona dove tolgono i telefoni e dove appunto sostano le persone appena entrate. E appunto i prigionieri ci dicono anche che gli operatori del centro hanno tenuto loro nascosto il nome, nonostante le loro insistenti richieste. E appunto, come dicevo, dicono che molte, dopo le udienze con il giudice di pace, molti prigionieri si sentono male, insomma, cadono nella disperazione, e molti in questa situazione appunto tentano il suicidio e vengono poi salvati dai compagni di cella, di stanza, diciamo. In questo caso appunto non hanno, i compagni di questo ragazzo non hanno fatto in tempo a salvarlo. E vabbè, e allora questo ennesima morte, insomma, di Stato ha provocato giustamente uno stato, diciamo, di rivolta a singhiozzo all'interno del CPR, e con varie, insomma, roghi, battiture, eccetera eccetera, proteste molto anche rumorose. E appunto si è ritornati anche come solidali, si è ritornati domenica, quindi qualche giorno dopo, si è ritornati davanti al CPR di Gradisca, sì, anche con la tensione, diciamo, di provare ad entrare come persone comuni, diciamo, non come parlamentari, quindi, o che ne so, o figure istituzionali. E vabbè, in questi giorni qua in effetti ci sono state, sono entrate dentro il CPR anche delle figure per donne e uomini di partito, le quali però chiaramente, essendo anche in campagna elettorale, periodicamente vanno a fare la loro passeggiatina, ma poi di solito non c'è mai un nulla di fatto dopo le loro visite. E l'intento di domenica era anche quello di fare pressione appunto per provare ad entrare nel CPR. E vabbè, probabilmente questa cosa non se l'aspettavano tanto, diciamo, la polizia, le forze di polizia, e perciò vabbè, fuori dalla struttura le forze della repressione hanno tenuto un profilo abbastanza basso, e dentro però invece erano schierati in tenuta antisommossa, insomma, sono intervenuti prontamente quando appunto i prigionieri hanno risposto, diciamo, alle urla di solidarietà e dei presenti fuori. Ecco, tra l'altro, una cosa che va detta, una cosa che è successa il primo nella serata del primo settembre: alcuni solidali erano andati davanti al CPR per mostrare solidarietà immediatamente, insomma, ai reclusi, e per raccogliere le voci sulla morte appunto di questo ragazzo pakistano, e mentre questi compagni erano lì appunto in dialogo con i reclusi, è arrivata una volante dei carabinieri, chiamata probabilmente dal personale del CPR, e insomma, in queste da una delle volanti è uscito un carabiniere che ha cominciato a correre, a inseguire, insomma, i compagni, puntando la pistola contro uno dei solidali. E quindi una roba molto grave questa. E a Monavia si rischia anche che finisce a schifio. E i compagni sono stati perquisiti e i loro cellulari sono stati sequestrati, praticamente sono stati portati poi in caserma per essere identificati, e hanno avuto qui la convalida del fermo di 12 ore. E in questo contesto, nella caserma, un ragazzo, un compagno, è stato costretto a una perquisizione integrale, a spogliarsi completamente. Quindi, insomma, c'è stato questo gesto di solidarietà, di repressione della solidarietà, piuttosto greve, pesante. E ecco, come dicevo, domenica invece, durante la presenza fuori dal CPR, la polizia ha tenuto un profilo abbastanza basso al di fuori, e si era in molti, c'erano almeno un centinaio di persone, un centinaio di solidali, che insomma è un buon numero, e siamo stati praticamente a ridosso del muro di cinta, insomma la muraglia blindata lì che c'è, che divide il parcheggio, diciamo, a fianco della strada dal CPR stesso. Ci sono state, appunto, la presenza è durata parecchio tempo, anche perché si sono raccolti dei nominativi come una sorta di delegazione per poter entrare, appunto, per tentare, insomma, di entrare nel CPR. Chiaramente ci hanno presi per il culo, nel senso, ma eravamo anche consapevoli, nel senso che non è che ci si aspettava che dicessero ah sì, entrate, ma il discorso era di comunque non lasciare, sì, provare anche questa strada qua. Prima sono stati raccolti i nomi, poi hanno la polizia, insomma la Digos ha detto che bisognava mandare i nominativi alla prefettura, insomma tutta una serie di robe che poi alla fine, vabbè, senza esito, però questo ha... Così, per una serie di fatalità, ci si è avvicinati appunto tantissimo alla muraglia e anche tantissimo al portone d'ingresso, cosa che non era mai successa nelle ultime mobilitazioni, in quanto c'era precluso proprio a priori, diciamo, l'accesso all'area subito attaccata al CPR. E invece il fatto di poter avvicinarsi così tanto ha permesso di condurre una battitura sul portone d'ingresso, e che è durata un paio d'ore, insomma una cosa abbastanza, sì, importante. E ecco, da dentro, appunto, dicevo, hanno risposto, ci sono state anche nel corso della nostra presenza hanno bruciato delle cose, ci sono state insomma delle proteste piuttosto attive. Purtroppo anche quel giorno lì c'è stato un altro tentativo di suicidio, per fortuna sventato dai compagni di cella, e anche questo tenuto sotto assoluto silenzio. Di queste cose non si è parlato assolutamente nei mezzi di comunicazione, cioè è stato detto sul Messaggero, è stata data la notizia di questo ragazzo morto, ma praticamente con un commento assurdo della Garante, la quale diceva chissà quale tragedia, quali trascorsi, quale tragedia ha vissuto questo uomo, come se la morte di questo giovane uomo, insomma, fosse completamente slegata dal fatto di trovarsi nell'incubo della detenzione amministrativa, solo perché era appena entrato, quando invece, insomma, chiaramente sapeva benissimo qual era il suo destino. Vabbè, vale la pena, secondo me, perché comunque in poco tempo ci sono stati tantissimi fatti di questo tipo. Ricordare, oltre a questa persona morta il 31 agosto, e anche le altre vittime di questa istituzione totale, appunto, produttrice di morte. Allora, nel dicembre del 2021 è morto Ezzedine Hanani, un uomo marocchino di 41 anni, che si è tolto la vita nella cella in cui era recluso in isolamento per quarantena Covid. Precedentemente, nel luglio 2020, è morto Orges Turia, è morto in seguito a una overdose, e un suo compagno di cella, tra l'altro, è scampato per un pelo alla stessa morte, alla stessa sorte, è stato salvato per un pelo. E vabbè, praticamente quando è successo questo fatto, il prefetto di Gorizia, Marchesiello, ha minimizzato dicendo che andava tutto bene all'interno del centro. Poi la stampa ha diffuso la voce di una nuova morte per rissa, perché chiaramente si fa passare questa idea che i detenuti sono persone poco raccomandabili. Poi la sindaca Thomas Insig e i rappresentanti della polizia hanno tornato a proporre, appunto, nei mezzi di comunicazione la narrazione dei detenuti tossici e dello spaccio di sostanze all'interno del CPR all'insaputa dei carcerieri, solita menata che, insomma, viene tirata fuori anche riguardo alle carceri. In realtà, appunto, ricordiamo che Orges Turia non era tossicodipendente, era un uomo di origini albanesi che era stato portato in CPR perché trovato senza passaporto, e che l'overdose di cui è stato vittima è stata un'overdose di farmaci, di psicofarmaci, perché oltre a mettere gli psicofarmaci nel cibo per sedare le persone a monte proprio, cioè alla base, rincarano la dose, magari quando ci sono dei momenti di crisi personale o anche di rivolte più o meno animate, partono a raffica con le sedazioni. Continuando con questo elenco, il 18 gennaio del 2020 era morto Vakhtang Enukidze, un cittadino georgiano 38enne che, secondo i testimoni, è stato ammazzato dalle botte, a causa delle botte ricevute dalle guardie armate della struttura. I testimoni, tra l'altro, sono stati deportati prontamente, appunto, affinché permetterli a tacere. E vengono sequestrati i loro cellulari e la famiglia di Vakhtang in Georgia subisce delle forti pressioni affinché non prenda parte a un processo penale. E va ricordato che fino ad ora non è ancora stato comunicato alcun esito ufficiale dell'autopsia sul corpo. E l'elenco continua a ritroso, ricordando la morte avvenuta a fine aprile del 2014 di Majid El Khodra, un ragazzo che è morto in ospedale a Trieste, a Catinara, dopo mesi di coma. Infatti, durante la rivolta che si è svolta nell'agosto del 2014, Majid era caduto dal tetto della loro CIE, allora non era ancora CPR, era CIE, e praticamente in seguito a questa caduta, chiaramente caduto in quanto era stato braccato dalla polizia, in seguito a questa caduta viene messo nell'ospedale, insomma va in coma, viene messo nell'ospedale e la sua storia praticamente viene anche lì nascosta, dimenticata. E ai suoi familiari viene negata per mesi la possibilità di vederlo. E vabbè, su questa cosa ci sono robe abbastanza pesanti, nel senso che sono stati cioè anche persone, insomma, ci sono stati come una sorta di come si posso dire, indagini verso i parenti e gli amici di questa persona, di questo ragazzo, che erano venuti dal Marocco appunto per vedere di lui, e sono stati accusati di volersi avvicinare per chissà quale ragione, insomma. Questo è l'elenco dei nomi delle persone morte dentro il CPR. E appunto questo elenco ci ricorda che a uccidere le persone non sono i loro fantasmi, le crisi esistenziali, eccetera, ma sono le leggi, le istituzioni, i rappresentanti dello Stato e tutti quelli, anche io aggiungo, che non fanno come se il CPR non esista, perché è impossibile, non è assolutamente accettabile che si continui a vivere come se niente fosse, quando si vive a un passo, a poca distanza da veri e propri lager. Tra l'altro dovremmo, io credo, prendere esempio dalla generosità anche dei prigionieri, che da dentro veramente non hanno, si hanno molto coraggio, insomma, rischiano in prima persona, perché dentro lì non è che, quando si espongono, quando mandano ad esempio dei filmati col cellulare, eccetera, o quando danno delle notizie di quello che succede lì dentro, poi dopo subiscono pesanti rappresaglie, quindi sono persone veramente molto coraggiose e anche noi dovremmo forse tirare fuori un po' di coraggio in più. Vabbè, naturalmente non torneremo, insomma, al più presto come solidali al CPR. Se volete guardare i filmati di cui parlavo, insomma, approfondire ulteriormente ciò che è successo in questi giorni, potete andare sul blog nofrontierefvg.noblogs.org. E lasciamo un po' in sottofondo questi Propagandi, band canadese che comunque anche prima, durante l'intervento, era sottofondo, tant'è che così questa sera avevamo deciso, anzi più avanti sicuramente li sentirete nuovamente in sottofondo, così lasciamo andare tutto l'album appunto durante gli interventi per non fare proprio così un vuoto totale tra ovviamente gli attimi di respiro nelle letture. E comunque ora, appunto, dopo aver sfumato questi Propagandi, come ho detto, andiamo all'ascolto di uno o due brani per questa band francese, che sinceramente non so se è tuttora esistente. Comunque nel 2007 fece un album completamente autoprodotto, anzi coprodotto, con alcune etichette appunto nell'ambito delle autoproduzioni, tra cui Francia, Svizzera, ma anche una della, se non erro, della Repubblica Ceca. Comunque noi ora andiamo ad ascoltarci, come ho già detto, questa band francese, gli Human Compost. Thank you. Bene, bene. Un saluto, ciao a tutte e tutti voi che siete in ascolto a questa puntata di giovedì 8 settembre 2022 di Zardins Magnetics, che va in onda in diretta dagli studi Via Volturno a Udine in questa serata di giovedì, come sempre da molti anni. Chi la realizza questa questa trasmissione non l'abbiamo ancora detto, mi sembra che non l'abbiamo detto, siamo noi, compagni e compagne dell'Assemblea Permanente contro Carcere e Repressione Friuli e Trieste, ormai già da un po' di tempo anche questo. Quindi lo Stato nei CPR spara lacrimogeni sugli sfruttati, dietro le mura e sotto, diciamo, i soffitti di plexiglass e acciaio, lontano dagli sguardi di chiunque tranne che i suoi, e spara lacrimogeni e da botte coi manganelli e carica gli sfruttati, quote eccedenti di forza lavoro, di quella forza lavoro strettamente necessaria a creare profitto, il profitto dei padroni, a cavare il sangue dalle rape. Il problema qual è? Lo Stato continua a fare quello che vuole, perché qui fuori, quando appunto gli sfruttati potrebbero reagire, non riescono, sono inermi, sono inermi, isolati, depressi, disperati. Disperati non sanno come reagire, perché, contro di chi, per arrivare dove. Una cosa importante da ricordare sempre, non per principio della memoria per sé e basta, ma come strumento utile per intervenire sulla realtà, è che gli sfruttati non sono sempre stati disperati, depressi, isolati. Non è sempre stato così. Nei decenni passati gli sfruttati si organizzavano e reagivano in modo modalità diciamo con spirito diverso da quello attuale. Per questo stasera vorrei parlarvi di un articolo molto importante pubblicato sulla rivista I giorni e le notti, rivista anarchica, che si viene realizzata a Rovereto. Il numero 13 del luglio 2021 aveva un articolo, dicevo, importante, anche se è passato un anno e più dalla sua uscita. Noi lo leggiamo stasera. Un tormento lungo 100 anni, il titolo, sottotitolo: sulla strage del Diana a Milano il 23 marzo 1921. 23 marzo 1921 viene collocata una bomba vicino in una sala da ballo di un albergo, una sala frequentata da ceti popolari nella metropoli di Milano. E si tratta di un errore madornale, uno sbaglio di obiettivo dei compagni. E questo, insomma, articolo cerca di panare le varie trame di questa vicenda, partendo da questa vicenda, per arrivare però all'oggi e a una, diciamo, riflessione sulla dimensione etica di quello che facciamo noi militanti, noi così solidali, fuori dalle strutture repressive, fuori dai luoghi di sfruttamento, nei picchetti, quando, specialmente quando ci rivolgiamo agli sfruttati, non solo nelle nostre, diciamo, elucubrazioni, che sono anche quelle importanti comunque. Il referente delle nostre attività, delle nostre azioni, non siamo solo noi, che comunque siamo noi, ma non è di sicuro il personale togato nei tribunali, non è sicuramente il questurino che ci ascolta anche in questo momento e sa benissimo che cosa parliamo e che cosa scriviamo. Il referente è sempre identificabile quelli che sono gli sfruttati e le sfruttate che subiscono ogni tipo di ovviamente lo dice il nome, sfruttamento, ma rimangono inermi e non sanno come reagire. Allora, il compagno che ha scritto, che ha steso questo per me importante articolo, identifica due momenti di cui noi dobbiamo far tesoro per non perdere la bussola quando le accuse della repressione dello Stato ci ribaltano contro, appunto, la nozione di terrorismo. Allora, il terrorismo, provocare il terrore tra gli sfruttati, è quello che fa o lo Stato con le stragi come Piazza Fontana, le stragi come la stazione di Bologna, oppure le organizzazioni criminose che sono comunque contigue allo Stato, anche queste, come ad esempio Cosa Nostra, oppure altri gruppi, diciamo, che si battono sostituire un tipo di regime con un altro regime dispotico, sicuramente autoritario, come possono essere i gruppi islamici. Ebbene, che noi e gli sfruttati, il movimento, diciamo, rivoluzionario, o quello che è adesso identificabile come chi si oppone allo stato di cose esistente, abbiano ben chiaro questa nozione di terrorismo. Noi quando parliamo di utilizzare, di reagire alla violenza dello Stato per difendere le conquiste, o addirittura per aumentarle, attaccando, per aumentarle, per tutelarle, dobbiamo avere ben chiaro, appunto, questa nozione di violenza, dove va applicata, come, e chiederci nel dettaglio, nello specifico, l'opportunità etica di ogni piccola azione. I due momenti nella storia di questo paese, che è l'Italia, che l'autore sulle quali l'autore mette il punto, sono la resistenza dei partigiani durante il fascismo e le ultime fasi della guerra di liberazione, e nello specifico le modalità di azione dei GAP, dei gruppi armati partigiani, gruppi armati patriottici, che dir si voglia, che ricordiamo, adesso senza dilungarci, però hanno agito sicuramente, hanno raggiunto ogni territorio di questo paese, ogni piccolo, più piccolo villaggio, parliamo del Friuli, ogni più piccolo villaggio del Friuli è stato interessato dalla guerra di liberazione dalla resistenza, è stato interessato anche da azioni cosiddette terroristiche. Questa cosa qua è innegabile, è inutile venire fuori come fanno certuni a dire ma no, nella metropoli era diverso, qua c'erano le formazioni di montagna, era... No, queste qua sono baggianate di soliti noti che tirano fuori queste diciamo distorsioni. Secondo momento importante, la lotta armata degli anni 70-80, da cui trarre insegnamento per il discorso dei pentiti, per come la repressione ha colpito a fondo un movimento anti-autoritario potente come quello e lo ha completamente smobilitato, disgregato, sfinito in giro di pochi anni. Allora, io adesso che già un po' di tempo che parlo con questa musica adatta di sottofondo, vorrei mandare un si chiama estratto di un film che tratta della guerra dei GAP, appunto, della lotta dei GAP nella città di Venezia. È un film che è stato uno dei primi, diciamo, film dissidenti della sulla questione resistenziale. È un film del 1963, Gianfranco De Bosio era membro, tra l'altro, rilevante del CLN di Verona e può partire il contributo. Buongiorno. Buongiorno. Sta qui, signor Zante? Sì, sì, avanti. Che devo dire? Un amico di Rovigo. Ah, adesso l'avverto. Grazie. Venga, venga, si accomodi. Vecchia di fuori sono scappato l'8 settembre. Allora? Sei arrivato facilmente fino qua? Le indicazioni della tua staffetta sono precisissime. Non ho tientelo perché fa un freddo cane qui dentro. Che ti sembra la magione? Si vede la terraferma. Finché non ti sei fatto vivo avevo un bel correre io. Mi vuoi un po'? Sì, grazie. Certo, ma nei caffè che ti offrivano all'università. Che ne è di Smith? Sempre al San Luca, sai, alla clinica oculistica. Con il prete e il commissario del popolo, eh? Già. Come hai passato il Natale? Nell'abbondanza e nell'allegria. E tu? Volevo fare una scappata a Padova dai miei. Poi... Allora? C'è l'ordine, Renato. Ed è tassativo. Devi lasciare la città. Ah. E chi gli dà questi ordini, se tutti sono tagliati fuori? Direttamente da Milano, dal Comitato Militare Alta Italia. Devi passare in terraferma. Ma quella è gente che non sa le cose. Aspettano un pezzo per me. Sai benissimo perché. Perché di te hanno bisogno. C'è da organizzare una brigata in terraferma, dove ci sono degli obiettivi militari, grossi. e dove non sei conosciuto. Sicché dopo tutto quello che abbiamo impiantato qua, dovrei andarmene. Sì. Per far piacere a quei due politici che mi hanno sempre avuto sulle scatole, credi che non lo sappia? Sei ingiusto, Renato. Si sono presa la responsabilità. E che altro dovevano fare? Tre sono finiti in prigione. Appunto. E non ci sono che io qua a Venezia che li posso tirar fuori. Loro e Oscar. Solo io. Ho già un piano, senti. No, ora devi andartene. Sei troppo individuato. Guarda, di queste la polizia ne fa circolare a dozzine. Lo sai? Scusami, nessuno è indispensabile. Questo film la feci fare nel 39 appena laureato per andare in Inghilterra. C'era un corso sui grandi motori a Birmingham. Quello sì fu un viaggio disintossicante. Cosa non parevano viste di là le nostre parate marziali, le adunate oceaniche, il prestigio dell'Italia imperiale. Il primo a venirmi a trovare quando tornai fosti tu. In orbace berrettino a punta, tutto fiero perché avevi vinto i vittoriali di non so che. C'è voluta la Jugoslavia per svegliarmi. Che massacri ho visto. E poi dicono i tedeschi. Comunque, avverti la staffetta che si trovi allo scalo ferroviario alle 5.30. Perché? No, no, me ne vado, state tranquilli, ve lo tolgo il disturbo. Ma prima c'è due o tre cose da sistemare. Ecco, di nuovo in diretta su Zardins Magnetics. Abbiamo mandato uno spezzone di questo film, di cui non ho detto il titolo, adesso lo dico piano, Il terrorista, regia di Gianfranco De Bosio. È un film del 1963. Le voci erano quelle di Gian Maria Volonté, faceva questo Renato, detto l'ingegnere, era un militante dei GAP, diciamo, e l'altro era un esponente del CLN che veniva appunto a dargli questo messaggio, perché alle azioni che l'ingegnere aveva condotto, andate sempre a segno, diciamo, era seguito insomma alle rappresaglie, e quindi erano stati con la regola della decimazione, eccetera, era diciamo scoppiato un po' di scompiglio, e non tutte le forze erano, ovviamente le forze borghesi erano per l'attendismo, eccetera. Questo è un discorso insomma che va, se si vuole farlo, va per le lunghe, non lo faremo stasera. Stasera stiamo parlando di questo importante, ripeto, articolo dal titolo Un tormento lungo 100 anni, ed è sulla strage del Diana. È una cosa diciamo un po' tecnica per addetti ai lavori di quelli maniaci della storia dell'anarchismo, tuttavia è una cosa importante perché il Biennio Rosso, dicevo prima della lotta di liberazione che ha raggiunto ogni più piccolo villaggio, paese, anche qui in Friuli, che è una zona periferica del paese, diciamo, dello Stato italiano, ma a maggior ragione il Biennio Rosso è stato un fenomeno che ha interessato alla grande, diciamo, come si direbbe in televisione, ha interessato anche soprattutto il Friuli, che era retrovia del fronte, diciamo, della Grande Guerra. Quindi la guerra aveva seminato devastazione, macerie, oltre che centinaia di migliaia di morti, anche invalidi, feriti, eccetera, miseria, disperazione nelle popolazioni. Ricordiamo insomma anche in Friuli, a Udine, in Carnia soprattutto, era organizzata l'USI, l'Unione Sindacale Italiana, che era, diciamo, aveva posizione decisamente diversa dalla CGIL su molte questioni, e la gente marciava, andava nelle strade, scendeva insomma per giorni e giorni in sciopero, si occupavano i municipi, e tutte queste cose sono successe, anche se lontano, è difficile immedesimarsi tutto ciò insomma che è successo un secolo fa ormai. anche tutte quelle che erano le memorie, diciamo, individuali, sì, in carne e ossa, sono già da tempo fisiologicamente a sé, sì, sparite. Ma teniamo a mente, insomma, il Biennio Rosso va rivisitato in questo senso, nel senso che in quell'epoca nessun tipo di organizzazione del movimento operaio, nessuno si è mai sognato di dissociarsi rispetto a un intervento o un'azione, diciamo, di difesa o un attacco offensivo contro la repressione, contro lo Stato. Nessuno. Questo è il discorso che viene svolto in questo articolo, che appunto, come ho già detto, riguarda un errore, insomma, madornale, ma di errore si tratta, insomma, una collocazione errata dell'ordigno. Semplicemente si trattava che la questura si era nelle vicinanze, invece che essere stata collocata la valigia dentro in questura, oppure nel vicolo immediatamente, insomma, sotto la finestra del questore. Non scendiamo nei dettagli perché non è l'oggetto di questo articolo, neanche questo, insomma, è stata collocata in un altro posto, che ha provocato, no, questo non l'abbiamo detto, 21 morti, quindi tantissime persone che non c'entravano niente, innocenti, 150 feriti, 150. Questo ha provocato un immediato, diciamo, un buco nel consenso immediato di tutte le forze che si opponevano alla miseria e allo stato di cose che c'era appena finita la guerra. Anche quelle forze più, diciamo, determinate, soprattutto, anzi, quelle forze più determinate, adesso lo dico velocemente, insomma, però c'era Malatesta e gran parte della redazione di Umanità Nova, che erano stati buttati dentro in galera senza tante cerimonie ed erano scesi in sciopero della fame. Questo perché appunto c'era stato un tentativo di occupazione delle fabbriche nell'autunno del 20. Appunto, all'inizio del 21 sono stati buttati dentro, insomma, in galera, Malatesta e altri, e loro erano scesi in sciopero della fame. Appena succede questo attentato, sospendono lo sciopero della fame e, insomma, capiscono che non è più sostenibile questo discorso, perché appunto si è creato nell'opinione generale un sconcerto su queste morti di innocenti. Però lo stesso, nessuno si permette di accusare i compagni responsabili di questo errore madornale, di questo terribile, insomma, sbaglio. E piuttosto il discorso viene ribaltato sempre a chi, insomma, nella freddezza li ha, insomma, presi, accusati, imputati di eccetera eccetera, quando quelli con la toga sono rappresentanti, insomma, delle cause per cui i compagni si sono mobilitati, eccetera. Ovviamente anche in questo discorso si inserisce pure Benito Mussolini, che insieme appunto alle trame di questurini ha buttato, insomma, non esitò a buttare veleno su tutto il movimento rivoluzionario. Per concludere questo mio intervento di stasera, ricordiamo, dato che oggi siamo l'8 settembre, che è una ricorrenza di questo paese alla zuava, secondo me, che è l'Italia. Perché sì, la Germania è stata spaccata a metà, ha avuto l'occupazione, eccetera, eccetera, noi ci è andata così, hanno dimenticato dopo due pochi mesi, si sono tutti andati a dare luce e vino. L'8 settembre lo Stato, quello, lo stesso Stato che butta i lacrimogeni sulla gente inerme, e lo stesso Stato è stato capace di dire si salvi chi può, no? Perché il massimo che sanno fare quando magari effettivamente le popolazioni hanno necessità di, sì, di reagire a una disgrazia, si salvi chi può l'8 settembre, ma noi però abbiamo sempre l'esempio di chi ha ignorato questo si salvi chi può, o chi ha pensato con la sua testa. E adesso io chiedo di mandare il secondo spezzone, che è un film che però ve lo preannuncio, se no poi non si capisce. È un film che vado a memoria adesso perché non me lo sono segnato, comunque Mussolini ultimo atto, mi pare, una roba del genere, del 1974, e cioè di, insomma, ricostruzione degli ultimi giorni del Duce, ma non interessa non il Duce, ma il comandante Valerio, ovvero Walter Audisio, che adesso ascolteremo interpretato da Franco Nero in questo film. Vi saluto. Questo è Pietro, commissario politico della nostra brigata. Scusa la nostra diffidenza, ma i contatti col comando generale sono ancora difficili. Siamo appena usciti dalla clandestinità e non ci conosciamo tra di noi. Ci sono perfino dei fascisti travestiti da partigiani. Comunque, i tuoi documenti sono ineccepibili. Qual è la tua missione? Abbiamo l'ordine di fucilare Mussolini e gli altri. E intendo farlo subito, al massimo entro un'ora. Non sono d'accordo. È mia intenzione consegnarlo al comando generale proprio per evitare esecuzioni sommarie. Ma l'ordine va eseguito prima che finiscano in mano agli americani. Le loro truppe sono ormai a pochi chilometri da qui. Non capisci? Neanch'io voglio che finiscano in mano agli americani. Li trasferiremo insieme a Milano. Io ho un compito ben preciso. E intendo eseguirlo subito, che ti piaccia o no. A mio giudizio questi ordini non sono giusti. Ma cosa vuoi? Vuoi salvargli la pelle? Quell'uomo è un criminale. Sono d'accordo, e dovrà pagare, e duramente. È proprio questo che mi propongo di fare, farlo pagare. Quello che non mi piace è un'esecuzione senza processo. Mussolini e i suoi complici sono già stati condannati a morte regolarmente. Esiste un decreto del Comitato di Liberazione, sottoscritto da tutti i partiti antifascisti. Allora uniamo le nostre forze per trasferirlo a Milano. Impossibile! Ma non vedete come tutti gli stanno dando la caccia? Gli americani, gli inglesi, strani agenti che vengono dal sud. Li abbiamo visti con i nostri occhi, incontrati. Già vengono fuori le vigliaccherie, i dubbi. Già incominciano i compromessi, lo schifo che volevamo eliminare una volta per tutte. O lo fuciliamo adesso, o non pagherà mai più. Fischiava il vento e la canna del fucile, rossa primavera alla fine di aprile. Poi venne maggio, l'ordine di disarmarci. Caro Valerio, non dovevamo fermarci. Vincenti e arroganti, un proiettili a testa. Caro il mio colonnello, e non smettere di giocare proprio sul più bello. Chi voleva la libertà, che cosa gli diciamo ai compagni morti per niente? Che cosa raccontiamo che un pelato appeso a testa in giù poteva bastarci? Che lo Valerio non dovevamo fermarci, ma porco Dio, Madonna ladra, non dovevamo fermarci. Bene, questa band che abbiamo ora ascoltato era dell'area di Torino e loro erano i Memento Mori, e ci siamo ascoltati ben tre brani, anche se non sembrava, da questo loro 7 pollici uscito nel 2006, anche se le registrazioni erano state fatte 2 anni prima. Comunque questo è un loro 7 pollici, ben 6 brani all'interno, e noi ci siamo ascoltati Morto un Papa, poi Golgota e Freccia. Vabbè, anche se questo brano Freccia era di una cover di una band torinese, Nero Orgasmo, degli anni 80. Comunque questo 7 pollici che si chiama Casa Auto Lavoro, Tanto Domani Muori. Bene, ora invece passiamo a questa band milanese, anche loro pare un unico album, datato ben 2004, unico album uscito in versione CD, poi questa band non si ha più avuto notizia. Comunque erano di Milano, si chiamavano Black Ball, e questo da un loro appunto album su CD che si chiama Chaos e Disorder, e ci ascoltiamo un paio di brani. Bene, abbiamo ascoltato un We weren't the nice boys they thought we were. We aren't nice boys. We were fucking nasty little bastards. We'll be right back. still on. Ci ascoltiamo un ultimo brano che questa band. Allora, per chi ovviamente diciamo ha seguito tutto un attimo fa il programma, ci sono stati dei disguidi tecnici, ovviamente causa mia, causa anche quello che è la diretta radiofonica di questo programma, che magari vabbè, basta che sfuga un piccolo cursore e ciao, e diciamo siamo fregati. Bene, che allora io volevo dire, riprendendo tutto da capo, perché non mi avrete sentito, la band che abbiamo ascoltato ora erano i Black Ball, band di Milano, da un loro album Chaos Disorder. Bene, siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, dalle ore 20 alle 21.30. Vi ricordo i nostri contatti, se volete scriverci tramite posta elettronica, liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure potete farlo in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Potete anche riascoltare questo programma, ma anche tutti quelli degli scorsi giovedì, andando su zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto anche questo, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. E anche ricordo che questa trasmissione viene condotta da compagni e compagne dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Udine. Bene, vi lascio con un ultimo brano di questa band, diciamo locale, della zona tra Monfalcone e Cormons. Loro sono gli Spegris, e questo è il loro album uscito recentemente, che si chiama Bor Yerde. Loro sono gli Spegris. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.